Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante, anche oggi insieme all'Adico di Mestre, quindi saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi mi porti a conoscenza di un fatto di un signore che ha avuto a che fare con una ditta specializzata nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Sì Francesco, perché ormai ogni anno vediamo che le pratiche che si riferiscono ai pannelli fotovoltaici aumentano sempre di più, tant'è che solamente nel 2015 abbiamo avuto oltre una ventina di casi di cui i nostri uffici legali se ne sono dovuti occupare. E allora l'occasione è quella di affrontare un po' l'argomento dando anche alcuni consigli, perché ci rendiamo conto che rispetto a quelle che sono tante allusioni, poi a fatti concreti chi anche si trova a realizzare questa spesa non sempre trova questi benefici sperati. Nello specifico quindi che cosa è successo? Nello specifico è il caso più comune, il classico signore che decide di installare un impianto fotovoltaico. Questo signore ne aveva installati 18 pannelli, si è trovato tra un periodo e l'altro a versare acconti per quasi 11.000 euro, ma con il trascorrere del tempo il signore non si è visto ultimare nell'opera e si è visto l'impianto non eseguito alla regola d'arte. In questa situazione il signore, per effetto di queste lungaggini, non è riuscito a beneficiare di quelli che erano degli incentivi che in quell'anno erano stati proposti dal governo. Parliamo di una vicenda iniziata nel 2012, ma arrivata sopra i tavoli dei nostri uffici qualche mese fa, e di cui oggi il signore ha deciso tramite il nostro ufficio legale di contestare l'azienda tutta una serie di cose, tra cui l'esecuzione, il fatto dell'impianto che non è stato completato, i soldi spesi e soprattutto ha richiesto un risarcimento di 10.000 euro per tutti quelli che sono stati i disagi e la situazione che ancora oggi non è stata risolta, e quindi anche i soldi indietro rispetto a quelli che sono gli acconti versati, che ricordiamo ammontano a 11.000 euro. Quindi questo signore ha pagato, gli è stato ammontato in parte l'impianto, ma che non funziona. Sì, era un preventivo di 14.000 euro, aveva stato a conti per 11.000, ad oggi si è trovato con un impianto ancora non completo, non funzionante, e quindi con tutti i disagi anche di chi ha iniziato un'opera edile nel tetto di una casa e questa non è stata più ultimata. L'occasione è quella di ricordare agli ascoltatori come bisogna stare un po' attenti, perché oggi per effetto di quelli che sono stati degli incentivi, troppe volte abbiamo notato di persone che hanno avuto contenziosi con imprese che più che risultare essere dei professionisti sono risultate essere dei dilettanti, e tante imprese che poi con la stessa velocità di come sono apparse poi sono anche scomparse. Quindi è bene che prima di affidare lavori di una certa rilevanza, di un certo importo, si informi sul tipo di impresa a cui affidare l'opera, ma soprattutto si cerchi di essere cauti sul tipo di contratti e sugli acconti da andare a versare, e certamente essere cauti con gli acconti, ma cercare di rinviare il saldo all'ultimazione dell'esecuzione dell'impianto. Ecco, questo mi sembra un ottimo consiglio. Come dire, il saldo è la parte più importante dei soldi, te la do a lavoro finito. E questa è una cosa che dovremmo imparare spesso a fare. Certe volte ci si fida un po' troppo e addirittura si paga anche prima che il lavoro sia finito o addirittura già a metà dell'opera, no? Quindi è importante questa cosa qui. È interessante anche la cosa che dicevi, selezionare la ditta anche vedendo il suo passato, la storia di questa ditta, che insomma se c'è da tanti anni magari è una ditta che è inserita nel settore e che quindi ha tutta la convenienza nel continuare ad assistere i suoi clienti. Sì, purtroppo informarsi nella vita è importantissimo, perché come detto troppe vite sono sorte da nulla e troppe vite sono svanite da oggi a domani. Ma soprattutto ricordiamo anche quelli che sono i casi più frequenti che noi come Adico ci troviamo nei confronti di questa problematica, che ha, come detto, fare con impianti fotovoltaici, perché al di là del problema delle vite ci sono poi impianti realizzati che producono potenza nettamente inferiore rispetto a quelle che sono le prescrizioni. Uno pensa di installare, non so, una potenza di 3,3 kW, alla fine si trova un impianto che ne fa meno di 2. E poi c'è il fatto che molte app che sono state realizzate non sono state realizzate a regola d'arte, per cui parliamo anche di interventi sul tetto che quindi hanno causato infiltrazioni, per esempio, o infiniti malamente. E soprattutto ricordiamo, quando si deve sottoscrivere certi contratti, l'Adico è sempre disponibile a dare un servizio di consulenza e a promuovere anche certi contratti che cercano di tutelare i consumatori nei confronti di queste imprese. Soprattutto ricordiamo come poi certe situazioni hanno determinato dei grossi disagi, ma anche dei grossi costi per le persone rimaste coinvolte in questi inghippi, perché poi ripristinare un'opera realizzata, sappiamo tutti che per chi abita su una casa poi è una spesa continua. Mentre parlavi, Carlo, mi è venuto in mente, ma esistono, non so se lo sai, esistono assicurazioni che vanno un po' a garantire il completamento dei lavori magari? Purtroppo l'unica cosa che noi prevediamo quando si sottoscrivono certi contratti di una certa importo è la stipula di una fideiussione, che può essere innanzitutto bancaria o assicurativa. Questo è un impegno per chi riceve dei soldi a ultimare l'opera, salvo il quale poi una persona è tutelato appunto dall'assicurazione della banca per i soldi che ha sborsato, e contestualmente viene liberata qualora il contratto viene concluso. Pertanto questa secondo noi è la cosa più importante che consigliamo agli ascoltatori. Poi da quello che abbiamo detto prima, certamente possono essere dei stratagemmi molto utili, ma certamente dissuadere il consumatore a versare acconti prima che l'opera non sia realizzata e soprattutto rinviare il saldo al collaudo. Perfetto, io credo che anche oggi siamo riusciti a dare quei consigli importanti e utili che magari in fondo sappiamo ma certe volte non consideriamo. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini dell'Adico, che ritroviamo sicuramente anche la prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.